Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Fra un anno e mezzo o due, come si viaggerà in Lombardia, sui mezzi pubblici soprattutto? Che cosa potrebbe accadermi, per esempio, se girando con l'auto io avessi bisogno di pagare tariffe, parcheggi, di sapere se una certa via è particolarmente intasata di traffico o qual è il modo migliore invece per abbandonare l'auto e passare ai mezzi pubblici? Federico Pedrocchi ne ha parlato con Fabio Terragni, presidente di Alchema, una delle società coinvolte nella messa a punto di soluzioni per la mobilità intelligente in vista dell'Expo 2015. Sentiamo. L'idea è che nel momento in cui un visitatore verrà dall'estero a visitare l'Expo 2015 a Milano abbia la possibilità di accedere ad un'informazione completamente integrata sul tema dei trasporti e della mobilità. Concretamente che cosa vuol dire? Prende l'autostrada, esce dall'autostrada, c'è un cartello luminoso che gli segnala il parcheggio, cosa che oggi ancora non avviene, che gli segnala se ci sono i posti, gli dice dov'è il mezzo di trasporto pubblico più vicino, gli dice quanto costa, gli dà la possibilità di comprare il biglietto direttamente dal cellulare o attraverso un sistema di near field communication, lo porta direttamente al sito Expo, dove può comprare il biglietto di accesso all'Expo e contemporaneamente avere l'indirizzo dell'albergo libero, il concerto che c'è stasera, era il posto dove deve mangiare, tutte le informazioni sui sistemi di trasporto locali che riguardano l'area milanese, regionali che riguardano l'intera regione Lombardia e direi integrati anche con tutte le informazioni rilevanti sui sistemi di trasporto italiani, perché se io arrivassi, che ne so, dalla Francia, voglio lasciare la macchina in un parcheggio per 3 giorni e visitare l'Expo, ma poi andare a Venezia, andare a Firenze, andare a Roma, devo poterlo fare usando una informazione integrata, una bigliettazione integrata e un orientamento molto chiaro, netto e semplice in modo da evitare problemi e diminuire gli impatti ambientali. Fabio Terragni è presidente di Alchema, che è una delle società che si sta interessando di tutta la parte, di un pezzo importante che è quello della governance di tutto questo sistema. Beh, sì, giustamente lei è partito dal turista, da quello che arriva per Expo 2015, però un sistema come questo poi resta e riguarda tutti i cittadini. Sì, noi ci stiamo occupando esattamente di questo tema, cioè di come rendere permanente e efficace un sistema soprattutto tecnologico che la società Expo 2015 sta sviluppando insieme a Cefri e il Politecnico di Milano e che è indirizzato prevalentemente al visitatore straniero. Renderlo permanente perché naturalmente diciamo dall'ottobre del 2015, quando finirà l'Expo, questo deve essere un sistema che rimane a disposizione di tutti i cittadini milanesi e lombardi e anzi deve essere un'occasione di, come dire, di eccellenza, ma direi diciamo uno standard di eccellenza che è previsto peraltro già dalle direttive comunitarie. C'è una direttiva del 2010 che è la 40 sui sistemi di trasporto intelligenti che mette in evidenza come in estrema sintesi per raggiungere una mobilità più sostenibile sia sì necessario investire sulle infrastrutture e sui servizi, cioè sull'organizzazione dei sistemi di trasporto, su nuove linee di ferrovie e di metropolitane, in alcuni casi anche su nuove autostrade e strade, ma sia contemporaneamente necessario investire una frazione minore ma a maggior ritorno sull'informatica applicata ai sistemi di trasporto. Oggi stiamo parlando di informazione, domani parleremo di traffic management, quindi di gestione dei sistemi del traffico e il giorno dopo si potrà parlare di comunicazione veicolo-veicolo-veicolo-infrastruttura, cosa che peraltro già in alcuni casi, per esempio nel caso del pagamento del pedaggio autostradale attraverso un sistema di free flow, già avviene. Questa è una forma di comunicazione, un po' come accade col telepass, tra il veicolo e l'infrastruttura. Un'ultima domanda, ma in prospettiva questi sistemi che operano nell'ottimizzare tutto quello che è il traffico in un'area regionale, però potrebbero diventare delle cose distribuite su un territorio grande come l'Europa. Insomma, potrebbe esserci un'integrazione con tutti gli altri sistemi. Insomma, parcheggi ci sono ovunque, autostrade ci sono ovunque, tariffe da pagare ci sono ovunque, ci si potrebbe centralizzare tutto. L'obiettivo dell'Unione Europea è esattamente questo, cioè le direttive vanno nel senso di una armonizzazione dei sistemi che devono essere tra di loro interoperabili, in modo da consentire al cittadino italiano che va in Francia o al cittadino polacco che va in Spagna di poter avere accesso alle informazioni, di poter avere accesso ai pagamenti senza impazzire, ma utilizzando i sistemi di bordo, le tecnologie che siano interoperabili in tutta Europa. Prima di lasciarci, colgo l'occasione per segnalarvi che il 20 e il 21 a Roma, a SMAU Roma, ci saranno diversi seminari proprio su questi temi dell'infomobilità. Noi invece ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì, torneremo a parlare di realtà virtuale. Buona serata, buon weekend.